La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Problema, cari ascoltatori, ma noi avevamo cambiato questa sigla perché qua stavamo andando verso la crescita travolgente. Qui l'Istat ci dice che anche il primo trimestre di quest'anno è più 0,1. Io devo aprire un altro contest e vedere se non è il caso di tornare indietro. Naturalmente non a quella, perché sennò mi tirate le pietre. Però, ragazzi, gli impegni sono impegni. E qui se la crescita è 0,1 non ci siamo. Avevamo detto che dovevamo procedere di 0,3 a trimestre, non ci siamo proprio. Giusto richiamo la regia dicendo, ma scusate, ma vi posto il problema? E allora io ve lo ripongo, cari ascoltatori. Allora, di cosa parliamo oggi? Innanzitutto grazie di essere in ascolto. Sono le 16:31, primi 39 secondi. Agli studi di Milano, Oscar Giannino vi saluta per essere alla versione di Oscar, ascoltarla in diretta o al podcast. L'indirizzo versione di Oscar @24.it per intervenire oggi 800 24 00 24, lo sapete, gli sms 349 238 6666. Vi dico subito che parleremo di un tema di quelli annosissimi per gli sprechi dello Stato, cioè le macchine pubbliche, le macchine blu per così dire, le auto blu, e sentiremo alcuni dei protagonisti del dibattito parlamentare di una misura che serve ad accelerare ulteriormente la dismissione. Faremo le cifre della dismissione. Prima di presentarvi gli ospiti e di riepilogarvi i dati del censimento delle auto di servizio pubbliche, voglio dare voce a una lettera di un ascoltatore che ha posto un problema che, a dirvi la verità, mi sembra molto fondato. Si chiama Ivan, questo ascoltatore. Ripeto, non equivocate, non ce l'ha con i dipendenti pubblici, ce l'ha con lo Stato che continua a dividerci, per così dire, a metterci gli uni contro gli altri. E non parla di fisco questa volta, parla di un'altra cosa. Allora, lui ha ricevuto una pubblicità di una delle primarie società che da molti decenni, in maniera meritoria, organizza vacanze di studio in Gran Bretagna, e l'ha colpito la pubblicità perché, ci scrive testualmente Ivan, ma io magari sarò un povero babbeo, certamente non conosco tutti i termini dell'operazione, ma mi chiedo, e chiedo a voi se mi sapete dare una risposta, perché il figlio di un dipendente statale può farsi 2 settimane di vacanza studio in Inghilterra usando i soldi INPS che io verso ogni mese per la mia pensione, anzi per pagare le pensioni che sono in atto, e quindi questa è la vera realtà, anche se io credo di versarle per pagarmi la mia futura pensione, mentre per mandare mio figlio nel Regno Unito per 2 settimane io devo pagare di tasca mia 3.000 euro? Avete una risposta a questa domanda? E in effetti ci allega il volantino, insomma, con cui questa società informa di questa iniziativa che si chiama Estate Insieme, Insieme. Che informa che tutti i dipendenti statali con i figli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado possono ricevere un contributo INPS per la copertura totale o parziale del costo del soggiorno studio, e la domanda di partecipazione al bando deve essere presentata entro le ore 12 del giorno 31 marzo 2016. E questa società ovviamente dice: potete farlo con noi perché noi abbiamo un protocollo aperto con l'INPS. Allora, Ivan ha torto o ha ragione secondo voi? La mia opinione è che abbia ragione. Perché il dipendente statale farà parte di tutti gli accordi che volete voi, fatti dal sindacato pubblico, che ci direbbero a questo punto: ma noi abbiamo avuto il turnover bloccato ed è giusto, ce ne siamo occupati, non abbiamo avuto rinnovi contrattuali agli scatti ed è giusto, ce ne siamo occupati, benissimo. Ma alla fine, però, perché bisogna introdurre divergenze di trattamento di questo tipo? Perché voi capite che un lavoratore invece privato, sia esso dipendente o autonomo, quando gli arriva per le mani questa roba, gli prudono le mani. Oltretutto abbiamo fatto la riforma Fornero per alzare i tetti, c'è il dibattito permanente tutte le sere in televisione su come si fa sui conti previdenziali e così via. E dopodiché uno si vede arrivare questa roba e dice: certo, sei dipendente statale 2 settimane, fate domanda perché voi avete diritto e l'INPS vi paga. Ma che cacchio. Ecco, io non voglio gridare su questa roba perché potrebbe sembrare una cosa per cui ce l'hai con i dipendenti statali. No, io considero però questa maniera di procedere con queste distinzioni tra lavoratori pubblici e privati una forma di guerra sociale. Perché più ci mettiamo gli uni contro gli altri, dando a noi la colpa di queste che in realtà sono regole pubbliche, secondo me più ci rendiamo tutti deboli rispetto alle prerogative che dovrebbero essere quelle non solo dell'uguaglianza, ma dell'equità e così via. Appello al legislatore, per così dire, anche se credo che questa roba sia una norma che venga da trattative sindacali del settore pubblico. Va benissimo, si saranno ben autotutelati i dipendenti del settore pubblico. Nel frattempo quelli del mondo privato però, bah, vabbè, riflettete. Cari ascoltatori, grazie a Ivan che era molto più arrabbiato nella sua lettera. Io non ho voluto alzare i toni perché non voglio offendere nessuno, però insomma, diciamo, queste sono le cose che fanno girare le scatole, ecco, per rimanere proprio Andiamo invece al tema delle auto blu. Allora, auto blu, la ricognizione pubblica, accessimento delle auto di servizio che viene fatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con il Formez, ci dice che gli sforzi per la diminuzione del parco delle auto di servizio pubblico in realtà va avanti. Io continuo a essere uno di quelli che si chiede come sia possibile che a questo censimento continuino a non rispondere ben 5.334 comuni su 8.048. Continuano dopo anni a non dare i dati loro richiesti. Quindi voi capite che siccome mancano 5.334 comuni su 8.048, la ricognizione è innanzitutto incompleta e approssimativa. E non per un ordine di grandezza così in modestissimo, per il quale dice Gianni non rompere i coglioni perché spacchi il capello in quattro. E che pifola, più della metà del totale dei comuni italiani. Ma se noi facessimo così quando ci chiedono i dati fiscali e dicessimo, sai che c'è uno su due, vedete un po'. No, vabbè, ma comunque. Però detto questo, nella ricognizione i passi avanti ci sono, anno dopo anno. Parrebbe che da oltre 60.000 di anni fa saremmo a poco più di 20.000. Allora, con l'approssimazione che vi ho detto, però, che mi risulta incomprensibile. Detto questo, c'è un provvedimento in corso di esame parlamentare per le nuove norme in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio, perché nel frattempo che dice la ricognizione che oramai la maggior parte delle amministrazioni centrali ha un parco auto in uso esclusivo o non esclusivo con autista pari o inferiore a 5 autovetture, si pone il problema poi di come mantenere al meglio questo parco, di assimilare alla proprietà le altre forme che non sono il pieno possesso, cioè il leasing e così via, oppure no. Allora, in questo esame del provvedimento parlamentare si incardinano proposte di ordine diverso, per così dire. C'è chi dice bisogna rendere reato penale, quindi reato con la reclusione, punibile con la reclusione l'utilizzo delle auto blu, e c'è chi dice bisogna essere semplicemente ancora più rigoroso di quanto non sia oggi la definizione dei titoli di possesso delle amministrazioni pubbliche. Allora, abbiamo con noi per parlarne il deputato che è relatore del provvedimento, appartiene al gruppo del PD, Enzo Lattuca. Grazie, buon pomeriggio di essere con noi. Buon pomeriggio a lei. E Giorgio Soria dei 5 Stelle, che ha sottoposto alcuni emendamenti al provvedimento. Grazie di essere con noi, Soria. Grazie, sono il titolare del provvedimento. Esattamente. La realtà è il primo firmatario, mentre la Tucca è il relatore. Ha perfettamente ragione. Allora, posso chiedere alla Tucca innanzitutto, ma voi tutti, non lei in particolare, però il relatore, ma che spiegazione possiamo dare a chi ci ascolta del come mai un numero così elevato di amministrazioni locali continui a non rispondere anno dopo anno alla richiesta di dati che viene sul parco delle auto pubbliche? La domanda è più che legittima. Io non mi limiterò a una spiegazione, ma cercherò di dare due soluzioni. Sì. Allora, la spiegazione è la seguente. La maggior parte di questi 5.300 comuni che non hanno risposto sono i piccoli comuni d'Italia. È vero, all'interno di questi 5.000 comuni che non hanno risposto c'è anche qualche comune capoluogo e quel comune non ha certo giustificazione, ma certo. Come sappiamo gli 8.000 comuni d'Italia sono in larga parte comuni piccolissimi che non hanno né auto blu né auto di servizio, perché non erogano nemmeno più direttamente servizi ai cittadini, perché si appoggiano o attraverso esternalizzazione o attraverso l'unione dei comuni ad altro tipo di strutture. Quindi io mi sono dato la spiegazione che la maggior parte di questi 5.000 che non hanno risposto perché, non avendo auto di servizio, si sono sentiti sollevati dall'onere di rispondere, comunque sbagliando, tanto che a loro è stata inflitta una sanzione. Cosa prevede questo perché testo? Perché lei stesso riconosce che ci sono anche capoluoghi tra i 5.000. Certo, per quelli è un po' più difficile immaginare. Ecco, appunto. Ora, la sanzione riguarda già i comuni, che saranno portati, obbligati, ad avere una riduzione delle spese per questo capitolo del loro bilancio del 50%. Poi abbiamo introdotto, o meglio, introdurremo con questa legge un'altra sanzione che riguarda i dirigenti o i funzionari, perché in molti di questi comuni non c'è nemmeno un dirigente, per intenderci. E qui si apre un altro capitolo che riguarda le fusioni dei comuni. Ma la sanzione diretta ai funzionari della pubblica amministrazione che omettono l'obbligo dichiarativo. E sarà una sanzione a loro carico, che va dai 3 ai 5 mila euro, se ben ricordo. E quindi un ennesimo tentativo di rendere efficace su tutto il territorio nazionale per tutte le PA il censimento. L'ultima soluzione su cui stiamo lavorando è quella di avere un incrocio tra le dichiarazioni fornite dagli enti locali e dalle pubbliche amministrazioni e un accesso diretto attraverso il database della motorizzazione civile a quelle che sono le auto in possesso, quindi intestate, agli enti locali per confrontare anche e verificare la veridicità delle dichiarazioni fatte. Questa è una cosa nuova su cui stiamo lavorando e mi pare una cosa intelligente, mi permetto di dire, insomma, pensata io, quindi posso dirlo, insomma. Lei considera, questo ovviamente, siccome un conto sono i dati e la metodologia con cui viene fatta la ricognizione, altro conto poi è il giudizio che è in termini personali, come gruppi parlamentari, con l'ausilio di consulenza professionale esterna, uno si può fare di questi numeri. Cioè, a suo giudizio, Latuca, l'idea che si trasmette dalla sintesi, e cioè che dal 2014 al febbraio 2016 siamo passati da 66.619 auto blu a 23.203, è un ordine di grandezza realistico? Lei non crede che stiamo barando? No, perché il 66.000, per intenderci, è sempre riferito a quegli enti che hanno risposto sia nel 2014 che oggi, quindi la proiezione è esatta, cioè non è che nei 66.000 ci sono anche le auto di quei 5.000 comuni che non esatto. hanno risposto oggi, no? Sì, quindi sì. L'intero è lo stesso, 66.000 sui rispondenti nel 2014, 23.000 oggi, ma d'altronde non è un mistero, cioè non è come dire che ciò è avvenuto per caso o per buona volontà. Il DPCM del settembre del 2014 insieme alla legge di stabilità Monti 2012 per il 2013 hanno stabilito dei vincoli che hanno impedito sostanzialmente il turnover delle auto, quindi le auto dismesse non sono state sostituite, i contratti di leasing di fornitura sono stati ridotti proprio perché la legge di stabilità del PCM hanno obbligato le strutture della pubblica amministrazione a prendere questi provvedimenti, quindi non è un mistero, insomma, non è I numeri torno. Della legge, nelle amministrazioni centrali resta, per così dire, questa anomalia delle medie rispetto a tutti gli altri, anche se ha delle spiegazioni, come vedremo, e cioè la titolarità da parte di difesa e giustizia di oltre 500 auto alla difesa e quasi 900 alla giustizia. Io per la giustizia, conoscendo bene le ragioni, cioè stiamo parlando di tutte le auto per le quali sono disposti, ordinati anche servizi di tutela e così via, eccetera, eccetera, alcune parecchie, anzi, sono blindate, cariche di chilometri, comunque, eccetera, eccetera, posso capire la difesa, io interverrei ulteriormente a ridurre queste 514. Però, insomma, il risultato, un buon risultato, è stato raggiunto. Bisognerà monitorarlo, magari, con questi maggiori emendamenti. Posso chiedere, all'autore, con un'ultima cosa, poi passiamo a Soria. Lei è dell'idea che davvero abbiamo bisogno di sanzioni penali per l'utilizzo delle auto blu? Allora, questo è un po' un malinteso giornalistico di questa mattina. Mi sembrava. Cioè, le sanzioni penali esistono già all'articolo 314 codice penale, secondo comma, per il peculato d'uso. Esatto. Ovvero, qualsiasi funzionario della pubblica amministrazione o impiegato pubblico che abbia nella propria disponibilità un mezzo, un bene strumentale, il telefono, la fotocopiatrice, il computer, ma la certo. macchina, non può utilizzare il bene sottraendolo a quello che è la propria funzione di servizio, cioè non lo può utilizzare a fini privati, per intenderci, cioè a fini distanti da quello che è il proprio servizio. Quindi noi che cosa stabiliamo in questa legge? Classicamente, insomma, l'esempio innumerevoli volte capitato negli anni era quello della spesa per la moglie e così via. Cioè, tanto per essere chiaro. Noi stabiliamo che esclusivamente, lo scriviamo nella legge, così lo rendiamo efficace questo principio per tutte le pubbliche amministrazioni, ben inteso, comprese la Consob, Banca d'Italia, insomma, quelle più autorevoli e autonome anche rispetto al resto della PA. Per tutte le pubbliche amministrazioni, la modalità di utilizzo delle auto non ad uso esclusivo, quindi non quelle che sono assegnate dal giudice o per ragioni di sicurezza e incolumità della persona, deve essere strettamente collegato al servizio che si fa e non comprende il percorso casa-lavoro. Questo significa che chiunque abuserà dell'auto che ha nella propria disponibilità o nella disponibilità del proprio ufficio potrà incorrere, e già ci sono sentenze della Cassazione su questo, nel speculato. Voi identificate ancora meglio la fattispecie che c'è già nel codice. Infatti io non riuscivo a capire, questo glielo ho chiesto, dico, ma veramente il peculato esiste, quest'altra roba non riuscivo a capire. Invece voi identificate meglio la fattispecie che c'è già. Sia ben chiaro, questa volta i giornalisti si devono prendere la colpa, quando non sono loro a capire è meglio spiegare da questo punto di vista. Allora noi abbiamo un minuto adesso di informazione stradale e poi torniamo con i nostri due ospiti, Giorgio Sorial, deputato del Movimento 5 Stelle, che era il primo firmatario di questo progetto di cui stiamo parlando in Parlamento. Abbiamo sentito il relatore del PD, Enzo Lattuca. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:49 prima di 21 secondi. Siamo partiti dai numeri della ricognizione delle auto blu. Insomma, pare che anno dopo anno, ma insomma, stiamo portando dei colpi al parco una volta immenso delle auto blu. Insomma, sono scesi da oltre 60.000 a 20.000 dal 2014 a febbraio di quest'anno. E in Parlamento si esamina come ulteriormente precisare innanzitutto gli incentivi e le sanzioni a chi non risponde tra gli enti pubblici ancora alla ricognizione e poi anche a precisare meglio il reato del peculato in cui si cade per l'uso improprio dell'auto blu. Però sul provvedimento il primo firmatario continua a dire precisiamo meglio però. Allora, Sorial, che cos'è che ancora non vi convince troppo dell'attuale stato del testo di cui lei era il primo firmatario? Allora, cerchiamo di chiarire subito alcune cose. La proposta di legge è una proposta di legge del Movimento 5 Stelle, di cui sono per l'appunto il primo firmatario. È una proposta di legge che abbiamo presentato a luglio 2015 e abbiamo fatto una grande battaglia per portarla in calendarizzazione e in discussione quindi alla Camera dei Deputati. Siamo noi che abbiamo presentato questa legge, ma come lei ha ben detto è relatore un deputato del PD, per il semplice motivo che questa legge doveva già arrivare in aula a ottobre e il PD stesso non ha voluto mettere un proprio relatore perché l'idea era quella di sopprimere questa proposta di legge e non portarla in discussione. Fortunatamente con delle pressioni e delle battaglie al Movimento 5 Stelle abbiamo fatto in modo che questa proposta di legge non venisse soppressa, che venisse quindi discussa, e oggi in questi giorni ci ritroviamo alla possibilità, come è giusto che sia per un Parlamento, di discutere questa proposta di legge e speriamo bene settimana prossima provarla, perché sarebbe un ottimo punto per quanto riguarda le autovetture di servizio, che purtroppo rimangono ancora tante in Italia. Si è parlato dei dati e di quello che è stato per l'appunto il censimento effettuato. Il censimento purtroppo, come già ricordato, parla solo del 45,6% degli enti interrogati e oltre ai comuni il problema fondamentale è che le istituzioni che non hanno risposto sono tutte quelle istituzioni che di autovetture ne hanno anche parecchie, perché parliamo di sanità locale, di ASL, parliamo anche di camere di commercio, di varie comunità. E lì il parco macchine è veramente numeroso e il fatto che loro non abbiano risposto in realtà va a sfalsare per bene questo censimento, che doveva dare un'indicazione al 29 febbraio del 2016 di quello che era il parco macchine che c'è in Italia. Quindi il fatto che si sappia solo, si sia conoscenza solo del 50% degli enti interrogati è un vizio di fondo che dovrebbe far riflettere. A prescindere da tutto ciò, la nostra proposta di legge vuole vietare fin da subito l'acquisto ulteriore delle autovetture nell'immediato, la dismissione di tutte quelle che ci sono già, ed evitare soprattutto una questione fondamentale di cui si parla poco, ossia i noleggi, i noleggi con e senza conducente, il leasing, perché è facile dire le amministrazioni non hanno più delle macchine in proprietà. Il problema poi è che ci sono tutta una serie di contratti con cui alcune amministrazioni continuano ad avere delle autovetture in leasing, con leasing che durano un sacco di anni, con noleggi che sono molto costosi. E se vi ricordate, anche nel 2014 si parlò anche di questo leasing presso Palazzo Chigi, con cui erano state aumentate le autovetture. Allora c'è bisogno di una proposta di legge come questa proposta per dare fin da subito un segnale, fare in modo che tutte le amministrazioni e gli enti che non rispettino la dismissione e continuino ad acquistare vengano sanzionate, vengano sanzionati tutti quegli enti che non rispondono al censimento nascondendo il numero di autovetture che hanno, e dando un bel taglio effettivo alle autovetture, perché guardi, anche se si è diminuito un po', continuiamo ad avere dei ministeri in Italia che hanno un'infinità di autovetture. Il Dicastero di Graziano Del Rio, per intenderci, il Ministero dei Trasporti, possiede 115 vetture, ok? Il Ministero delle Politiche Agricole ne possiede qualcuno, quello della Giustizia, come ha detto lei, ne possiede un sacco, quello della Difesa ne possiede 514. Stiamo parlando di un numero di autovetture che è veramente molto più grande di quelle che sono le autovetture, per esempio, nel Regno Unito. Nel Regno Unito i singoli ministeri non beneficiano di autobus. Esatto. Esiste un carpool, ossia esistono 80-90 macchine per tutta l'amministrazione centrale, che vengono utilizzati solo dai ministri e dai funzionari di grado più elevato, ed esclusivamente per motivi di servizio. I politici queste macchine non possono utilizzarle in Regno Unito per partecipare a eventi politici, e sicuramente non possono utilizzarle, come purtroppo è nello status italiano, anche per effettuare quegli spostamenti che sono del tutto personale. Per questo una proposta di legge del genere ha lo scopo di andare a tagliare completamente, punire chi ancora, dal punto di vista pecuniario poi, perché si puniscono le amministrazioni dal punto di vista pecuniario, quelle che continuano ad acquistare, e si fa in modo per l'appunto che si evitino delle situazioni ridicole dove di tutti gli enti interrogati solo il 50% risponde, l'altro 50%, sì, sicuramente ci sarà qualche piccolo comune che non ce ne ha, ma ci sono tantissime altre che ne hanno tante ed evitano di rispondere proprio per nascondere questi dati. Allora, noi monitoreremo la fine, insomma, dell'esame parlamentare, la doppia lettura e così via. Io mi auguro che convergano appunto la maggioranza e l'opposizione su misure che diano soddisfazione ai cittadini contribuenti. Della verità, lo sapete che questo è un punto delicatissimo. Alberto da Roma ci dice: assurdo un censimento, ma queste cose bisognerebbe che risultassero tutte in digitale. Non risultano in digitale, Alberto, assolutamente no. Roberto da Caserta, a proposito dei benefits ai dipendenti pubblici, dice: ce ne sono, e come no se non ce ne sono. Anna invece dice: però noi paghiamo una percentuale per questi benefici, state attenti, e questo è il fondo assistenza, per il quale quindi non è un regalo. Vediamo, andrò a verificare, Anna, se è una cosa contrattuale o è tutta pagata con contributi aggiuntivi. Ci vediamo e ci sentiamo domani mattina alle 8:15 con Alessandro Minella. Attenti a noi due.